Una compagna di Roma 3, pronto, ci senti? Sì, vi sento. Ok, perfetto. Ci racconti un po' l'appuntamento di oggi pomeriggio di Lettere e Filosofia all'indomani della giornata del 14. Sì, diciamo, allora, la facoltà di Lettere e Filosofia è ancora occupata proprio per mantenere viva l'attenzione sui fatti di queste giornate e l'appuntamento di oggi è indetto da i compagni di Roma 3 è aperto al territorio per continuare, diciamo, le lotte che sono state fatte in queste settimane e per immaginarci insieme il 21 e il 22 dicembre come appunto uno spezzone e comunque insomma, delle realtà che si incontrano e creano appunto una lotta che durerà, insomma, fino al 22-23 e poi insomma vediamo come continuare. Quindi l'invito è a chi vuole partecipare sia insomma delle realtà di Roma Sud ma anche cittadine e soprattutto poi insomma visto che siamo una facoltà occupata, quindi anche studenti e studentesse di Roma 3. Ok, quindi soprattutto per mantenere alta l'attenzione dopo il 14, ma anche per capire immediatamente i prossimi passaggi di mobilitazione la prossima settimana, anche certo, al fronte del tentativo un po' di fare paura da parte dei media, delle istituzioni, dalla prossima certo, settimana di mobilitazione in cui comunque andrà avanti il DDL Gelmini. Certo, perché comunque quello che ci interessa ovviamente è mantenere parallelo i due livelli, in parallelo i due livelli, nel senso da una parte mantenere appunto alta l'attenzione su quello che sta accadendo e dall'altra parte continuare la lotta contro il DDL Gelmini, insomma, che è diciamo la motivazione che poi ci ha fatto, una delle motivazioni per cui abbiamo occupato da più di una settimana. Ok, noi ti ringraziamo, ci andiamo a sentire magari in serata o nel pomeriggio per raccontare l'assemblea.